Vangelo di San Luca, capitolo quinto. Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e levavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi din sulla barca, ammaestrava le turbe. E com'ebbe cessato di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse, «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, alla tua parola calerò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. E fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli, e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo, «Signore, dipartiti da me, poiché sono un uomo peccatore». Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevano fatta. E così pure Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone, «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore d'uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gittatosi con la faccia a terra, lo pregò, dicendo, «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi». Ed egli stessa la mano lo toccò, dicendo, «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dire niente a nessuno, ma «Va», gli disse, «mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè». E ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più, e molte turbe si adunavano per udirlo ed esser guarite dalle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, e non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduto la loro fede, disse, «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare, dicendo, «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro, «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire, i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dire, levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico, «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando il Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano il Dio, e pieni di spavento dicevano, «Oggi abbiamo visto cose strane». E dopo queste cose, egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella, e gli disse, «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un gran convito in casa sua, e c'era gran folla di pubblicani ed altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo, «Perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori?» E Gesù rispondendo disse loro, «I sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Ed essi gli dissero, i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevano. E Gesù disse loro, potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno. Disse loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vin nuovo rompe gli otri e il vino si spande, e gli otri vanno perduti, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. E da nessuno che abbia bevuto del vin vecchio ne desidera del nuovo, perché dice, il vecchio è buono.